Gastronauta di Davide Paolini. Buon tartufo a tutti, cari radioascoltatori. Ebbene, oggi faremo un tour dell'Italia andando a scoprire dove si trova tartufo. Ebbene, molti pensano che magari i posti deputati siano Alba, Acqualagna, San Miniato e altri, ma in realtà ci sono delle piccole enclave in giro per questo paese, davvero magari poco conosciute ma molto interessanti. Noi le andremo a scoprire, ma soprattutto scopriremo anche quanto costa il tartufo quest'anno. Costa meno dell'anno passato? Ce n'è molto? Ebbene, quindi tutti questi interrogativi le andremo così a risolvere e a scoprire man mano che sentiremo dei nostri così esperti che interverranno dalle varie parti d'Italia, ma soprattutto vorremmo sentire anche voi, magari voi che in questo momento ascoltate la radio e siete in procinto di sedervi in un ristorante dove si mangia tartufo o in un mercato dove questa mattina appunto questo pregiato tubero, il tuber magnatum pico, è magari messo all'asta. Ricordo, numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire e darci queste informazioni o anche chiederci delle curiosità, e messaggi sms 349 238 6666. Bene, vorrei cominciare questo giro, questo tour, da uno dei mercati deputati, uno dei mercati più importanti, perché il nostro Giancarlo Marini, buongiorno Marini. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Si trova nel mercato del tartufo di Acqualagna, vero? Sì, siamo in pieno svolgimento della 44esima fiera nazionale del tartufo bianco. E allora, Marini, quali sono le quotazioni, il fixing questa mattina del tartufo? Ma diciamo per Acqualagna abbastanza basse rispetto al mercato nazionale. Partiamo da una pezzatura piccola che va intorno ai 10-25 grammi sui 1200 euro e per salire all'extra tartufi da 70-80 grammi fino a 200 grammi per 2000 euro al chilo. Ecco, lei ha già fatto una distinzione di prezzo ma anche diciamo di dimensione, quindi i tartufi più pregiati quali sono? Intorno a un etto di solito? No, questo è un grave errore dove ecco. Spesso i consumatori cadono. La dimensione del tartufo non pregiudica le qualità organolettiche, cioè i tartufi piccoli sono buoni come quelli grandi, soltanto che quelli grandi costano di più perché sono più rari. Ah, ecco, quindi questo è il fatto, quindi non è un fatto di qualità, è un fatto proprio di ricerca e quindi di rarità il punto. Certo. Senta, certo. Rispetto all'anno scorso siamo molto più bassi sui prezzi? Siamo circa la metà. Ah, quindi diciamo che quest'anno abbiamo un tartufo popolare, chiamiamolo così, insomma, si può mangiare quest'anno, ci si può sedere al ristorante? Ma sì, certamente quest'anno, specialmente nel territorio d'Acqualagna, c'è una abbondanza anche nei piatti che raramente si vede nei ristoranti, e a prezzi veramente sotto i 50 euro a pranzo, voglio dire, è veramente eccezionale. Cioè, io invito tutti a venirci a trovare perché si mangia tartufo e si compra tartufi veramente a prezzi di saldo, diciamo di saldo, via. Beh, insomma, prezzi di saldo, certo, perché poi bisogna vedere cosa fanno i ristoratori. Ma intanto sentiamo un radioascoltatore, Andrea dalla provincia di Varese. Buongiorno Andrea. Buongiorno Davide Paolini, complimenti intanto per quello che fa con la sua trasmissione. Grazie. Dunque, io volevo parlare appunto a proposito di una zona particolare, diciamo, di produzione del tartufo. Nella provincia di Mantova, nella zona di Borgofranco Po, Bonizzo di Borgofranco sul Po, quindi sulla riva destra del Po, della zona di, tanto per intenderci, Revere, Ostiglia e quant'altro, c'è una piccola zona appunto di produzione e di commercializzazione di questo prodotto magnifico. E oltretutto si tengono anche delle fiere annuali, per esempio a Bonizzo di Borgofranco sul Po, la seconda domenica di ottobre, ogni anno si svolge appunto la fiera del paese, che è anche l'occasione per presentare appunto la produzione del tartufo e tutto quello che è collegato al mondo del tartufo. Senta, ma visto che lei è così informato, a Borgofranco, quali sono le quotazioni ad oggi? Le quotazioni non sono pane mio. Ah, ho capito, purtroppo. Va bene. Borgofranco è mantovano, io abito in provincia di Varese, anche se sono di origine di quelle zone, ovviamente. Grazie, grazie Andrea, la ringrazio di questa segnalazione. Borgofranco, un altro punto che si aggiunge ai tanti altri luoghi che andremo a visitare. Volevo ricordare il numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Bene, io faccio un altro appello ai nostri radioascoltatori. Quanto avete pagato al ristorante ristorante, il piatto magari che qualcuno ha mangiato di tartufo, è importante questo, così daremo altre quotazioni, ma intanto continuiamo. Io ringrazio Giancarlo Marini da Acqualagna, buongiorno Marini, grazie del suo contributo che ci ha dato. Grazie così. A voi. Vabbè, e continuiamo questo viaggio, appunto, dicevo questo viaggio, e ora andiamo a Savigny, in provincia di Bologna, andiamo da un ristoratore molto noto, che è Alberto Bettini della trattoria da Amerigo. Buongiorno Alberto. Buongiorno Paolini, buongiorno agli ascoltatori. Allora, com'è la stagione quest'anno? Stagione buona, contrariamente a tutte le aspettative, l'estate era un po' così, siccitosa, ci stavamo aspettando un altro autunno di pene, invece insomma si è sviluppata bene, già da proprio dalle prime avvisaglie a fine settembre, tartufo di qualità e poi proseguita bene. E i prezzi? Prezzi medi, medio-bassi, diciamo, se prima sentite parlare di quotazioni, comunque sul mercato, domani tra l'altro si tiene la seconda domenica della nostra fiera annuale al tartufo, si parte dai 120-150 euro letto della pezzatura piccola, 200 già una bella pezzatura sostenuta. Quindi invece al ristorante, lei ha anche un ristorante, ci dica quanto mette un piatto di tagliatelle col tartufo? Ad oggi sono 37 euro con 10 grammi di tartufo, che è considerato in tavola pulito, spazzolato, compreso tutto lo scarto buttato, a 27, quindi sono 10 grammi a 2,7 e 10 euro considerata la tagliatella, per dire, o le uova o i passatelli. Bene, grazie Alberto Bettini, qui siamo a Savigno, provincia di Bologna. Salvatore della provincia di Napoli, un radioascoltatore, sì. Buongiorno. Buongiorno Davide. Senta Davide, volevo sapere, mi hanno regalato un tartufo e come conservarlo e per quanto tempo lo posso fare, evidentemente. Ora sentiamo un radioascoltatore, Marco dalla provincia di Milano. Buongiorno Marco. Sì, salve Paolini, buona giornata e complimenti per la trasmissione. Ascolti, io sono stato proprio 15 giorni fa a pranzo, a cena con degli amici, ci siamo fatti una bella risottino col tartufo, ottimo il profumo, ma praticamente in sapore al palato. E volevo sapere se c'era un problema nel tartufo o se il tartufo era... Che problemi aveva il tartufo? Che è ottimo di profumo, praticamente... Bene, bene. Marco, questo è un problema importante, nel senso che il tartufo è così, è un grande, diciamo, produttore di profumo e il sapore è molto meno, quindi molte volte bisogna accontentarsi di sniffare, come dico io, sniffare il tartufo, perché sicuramente è la cosa più importante. Ma ora chiederemo sia la domanda di prima che ci è stata fatta dal radioascoltatore a un grande trifolao della capitale del tartufo, e andiamo ad Alba, andiamo da Paolo Cerutti. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Prima di passargli la parola voglio ricordare una cosa importante. Domani al Castello di Grinzane Cavour si terrà l'11ª edizione dell'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba, dove io ogni anno sono anche il battitore, quindi sicuramente lo ricordo molto volentieri, un'asta che tutto quello che verrà raccolto viene devoluto in beneficenza. Questo è importante, e i prezzi, lo ricordo, sono drogati, nel senso che si tratta di beneficenza, quindi non bisogna prendere quei prezzi di battuta dell'asta come un fatto reale di mercato. Bene Paolo, allora innanzitutto, visto che siamo nella capitale, due cose: quali sono le quotazioni ad oggi e com'è la stagione? Ma la stagione si sta entrando nel momento cruciale, d'ora in poi ci saranno veramente i tartufi, quelli buoni. Questa settimana è stata non è uscito proprio tanto prodotto e i prezzi sono lievitati un attimino, ma speriamo che nel futuro possano calare anche un po', supportati da una maggiore produzione. Ecco, i prezzi dipende sempre dalla pezzatura, comunque andiamo da 250 a 350 con punte anche superiori per gli esemplari unici o queste cose qui. Beh, ricordo 800 24 00 24, per chi volesse intervenire. Magari sono contento se qualcuno mi dice: al ristorante ho pagato troppo o ho pagato poco, al mercato costa così. Ecco, vediamo di fare anche questo incrocio oltre con i nostri esperti. Lo ripeto, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Allora Paolo, io voglio chiederti anche questo, c'è stato chiesto ed è una domanda che torna spesso: come conservare il tartufo? Allora, la cosa migliore è mangiare il più in fretta possibile, nel senso che il tartufo, sprigionando profumo, anche sapore, se ne va col tempo, e quindi è determinante mangiarlo fresco. Detto questo, a volte bisogna tenerlo qualche giorno. La cosa migliore per il consumatore è metterlo in un panno di carta assorbente oppure un tovagliolino nel frigorifero, in un contenitore, se no profuma tutto il frigo e magari ci sono cose che non sono adatte, e in questo modo qui lo si può mantenere anche per una settimana. Torniamo a dire che è meglio mangiarlo fresco. Quando il tartufo è maturo bisogna consumarlo. Poi volevo solo, per quanto riguarda il problema che ha posto l'ascoltatore precedentemente, ha ragione lei, nel senso che i tartufi bianchi sono proprio così, cioè hanno un profumo spettacolare, ma il gusto non è così così forte, quindi a volte bisogna fare prendere delle qualche attenzione, cioè nel senso che è determinante tagliarlo finissimo, quindi il taglia tartufi è una cosa importantissima, perché deve tagliare molto molto fine in modo che la fetta, asciugando, lascia andare più profumo possibile. E poi un trucco, per esempio, per i primi è quello di mettere un po' di fette sotto la pasta, no? Un po' di fette sotto e poi le altre sopra, in modo che quelle sotto, il profumo andando su, insaporiscono un po' di più la pasta. Bene, poi io alla fine così svelerò il mio piatto preferito, che si chiama il boccone del gastronauta, una mia invenzione di come mangiare il tartufo, ma questo lo racconterò poi. Sentiamo Pasquale da Catanzaro, radioascoltatore, buongiorno, grazie Paolo. Prego. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre con interesse. E niente, io volevo dire che praticamente qui in Calabria non si parla mai di tartufo perché non c'è una cultura, però ci trovano tanti tartufi anche di buona qualità, devo dire. Proprio riguardo a questo, l'altra sera abbiamo fatto una cena, una degustazione proprio con tante portate, tutte a base di tartufo chiaramente. E volevo dire il costo, che sembra, io sento dei prezzi molte volte assurdi, forse perché abbiamo, ecco, la materia prima e non c'è questo grande mercato evidentemente. Abbiamo pagato 30 euro a persona, cioè una cifra molto contenuta. Pensare quattro portate con i vari assaggi, insomma, è veramente interessante questo. Senta Pasquale, ma qual è il luogo, la località oppure l'area in allora, cui... Io sono in provincia di Catanzaro, sì. Esattamente alla Lamezia Terme, sì. L'altra sera eravamo in questo ristorante proprio, e addirittura abbiamo fatto questa cena con degustazione guidata addirittura dalla Slow Food, dove ci hanno anche spiegato un po' il tartufo e tutto quanto, e qui nella zona della Sila del Pollino praticamente ho potuto apprendere che ci sono, diciamo, c'è una si trova parecchio. Beh, la zona dove si trovano anche dei funghi straordinari, quindi la zona, quella zona lì praticamente. Esatto, la Sila, insomma. Bene. Bene Pasquale, la ringrazio per questa segnalazione, sono contento che arrivano, abbiamo sentito Borgo Franco, la Calabria, abbiamo vari radioascoltatori che ci hanno mandato gli SMS, poi le leggerò dopo. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Alessandro da Milano. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Sono stato recentemente, un mese fa, a Bra a mangiare appunto il tartufo. Devo dire che ho trovato un ottimo tartufo e una spesa anche secondo me non eccessiva. Si andava, allora, io solitamente quando vado a mangiare il tartufo c'è il solito meccanismo: o ti portano il pezzo che tu poi scegli, lo pesano e quindi sai che cosa stai mangiando e quanto lo pagherai, oppure a grattata cosiddetta. Ecco, questa volta ho scelto la grattata perché mi fidavo del posto, e devo dire che 35 euro a grattata, una ottima grattata su dei piatti anche semplici, che sono secondo me il sistema migliore proprio per assaporare il tartufo, devo dire che non l'ho trovato una cosa eccessiva, e raffrontandolo alla volta che invece andai a comprarlo, fu molto divertente come lo comprammo nel retro di una macelleria, anche lì una persona fidata, comprammo un pezzo enorme. Bene. E lo pagavo parecchio, però grazie Alessandro. Alessandro, la telefonata non è perfetta quindi la devo interrompere, ma abbiamo capito, volevo dire molte cose perché ci sono arrivati moltissimi SMS. Allora ricordo un radioascoltatore che ci chiede dove andare in Puglia, quindi cari radioascoltatori, io la rimando a voi questa domanda. Pugliesi, intervenite, ditemi dove si può mangiare il tartufo nella vostra regione. E poi ancora c'è un radioascoltatore che mi segnala sull'Appennino reggiano la sagra del tartufo di Caviola, no, di Cavola di Toatto, di Toano, provincia di Reggio Emilia penso, e quindi un altro posto, e quindi ancora poi un altro radioascoltatore che mi dice tartufo Sant'Agostino, provincia di Ferrara. Caro radioascoltatore, tu sei caduto a fagiolo, come si dice, perché ho con noi Francesco Malagutti. Francesco Malagutti è appunto del ristorante La Rosa di Sant'Agostino in provincia di Ferrara. Buongiorno Malagutti. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, la vostra è un'isola felice di tartufo, mi dice qual è il prezzo più o meno che si paga in questi giorni? Ma io mi riferivo all'intervento che ha fatto prima l'amico e collega Alberto Bettini di Amerigo. Sì. Noi siamo molto vicini come territorio e quindi i prezzi più o meno sono quelli. C'è da dire che quest'anno per fortuna non ci fanno penare i cavatori, quindi insomma c'è una buona raccolta e una buona qualità, anche perché in questo momento da noi si vive quella che è una realtà dell'estate di San Martino. I vecchi hanno sempre detto che l'estate di San Martino è un buon momento per i tartufi qui da noi. Oggi qui c'è il sole, più di così fra 3 giorni San Martino, quindi credo che sia il massimo adesso. Ecco, Malagutti, guardi, ho un radioascoltatore che mi manda un sms e mi dice: bene, se il tartufo costa molto meno degli anni passati, beh, allora anche al ristorante costerà molto meno. Sì, certo. Sì, i prezzi rispetto all'anno scorso sono leggermente calati e soprattutto sono praticamente dimezzati rispetto a 2 anni fa, dove chi si occupa dei tartufi sa che è stata un'annata, perlomeno qui da noi, drammatica, e lì è stato veramente un disastro, anche perché poi non tutti gli avventori dei ristoranti sono informati e quindi quando si vedono presentare dei conti fuori dalle loro aspettative diventa problematico. Purtroppo proporre un tartufo di qualità in stagione e senza alchimie varie purtroppo porta a volte delle sorprese. Quest'anno per fortuna parliamo anche di cose belle, per cui insomma i tartufi quest'anno sono buoni e i prezzi sono più accessibili. Beh, tutti a mangiare il tartufo allora. Sentiamo un radioascoltatore, grazie. Malagutti, lo ripeto, trattoria La Rosa, Sant'Agostino in provincia di Ferrara. Sentiamo Riccardo da Modena, buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno Davide, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Volevo segnalarle l'Appennino modenese, è grande principe per ciò che riguarda la coltivazione, l'estrazione e il consumo del tartufo. C'è appena stata a Montefiorino di Modena una sagra che è durata tra l'altro un paio di settimane, dove abbiamo trovato dei grandi tartufi belli maturi e ce li siamo veramente gustati, ottimi, a dei prezzi buoni quest'anno, attorno ai 200 euro. I ristoranti erano tutti attorno ai 30, dai 30 ai 40 euro a pasto, quindi con il primo, secondo e bene, eccetera. Abbiamo scoperto un altro posto, Montefiorino in provincia di Modena. Bene, devo leggere un sms molto, molto interessante. Mi dice: beh, se quest'anno costano la metà, allora negli altri anni ci hanno preso in giro, dice un radioascoltatore. Beh, non sono d'accordo. Purtroppo il prezzo del tartufo è dato anche dalla quantità dell'annata, quindi sicuramente si è basato su questo. Quest'anno è molto più ricca data la stagione, quindi ci sono più tartufi e probabilmente c'è anche la crisi, non dimentichiamo, quindi i prezzi sono ancora più contenuti, ma è un'annata giusta per poter mangiare il tartufo. Ma poi ho anche un altro SMS. Sentiamo Giuseppe da Brescia, buongiorno, un altro radioascoltatore. Giuseppe, buongiorno. Ah, buongiorno Davide, buongiorno, complimenti. Sentivo la sua trasmissione, sono reduce con mia moglie da una cena a un ristorante ad Isola d'Asti a base di tartufo. Lo facciamo una volta l'anno, siamo degli appassionati, non solo di tartufo. E volevo segnalare il prezzo, quel 30 euro che sentivo dire per tartufo d'alba, che mi sembra abbastanza appropriato. In questo ristorante ho mangiato una zuppetta di porcini con l'uovo e con il tartufo, che è deliziosissima. Il tartufo ero abituato a metterlo sulle uova e sui tagliarin, no? Come di prammatica, ma questa zuppetta mi sono fatto convincere dal proprietario, dal patron, dallo chef, e lo segnalo come piatto eccezionale. Bene. Se vuole le dico anche il ristorante. Ce lo dica ormai. È a Isola d'Asti, il Cascinale Nuovo. Grazie Giuseppe. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Allora, ho in linea un pugliese che ha risposto al mio appello. Buongiorno Vittorio da Lecce. Salve, buongiorno. Mi dica. Glielo spiego subito, tramite lo Slow Food abbiamo fatto anche degli assaggi 2 anni fa, un anno fa, eccetera eccetera. Il tartufo che si trova qui in Puglia, specialmente nel Salento, il ricercatore è a Corigliano d'Otranto ed è un buon tartufo, l'abbiamo sperimentato, l'ho provato anch'io con vari cibi e altre cose, e vi posso garantire soltanto che è un tartufo non come quello di Alba o come quello dell'Umbria, però è un buon tartufo. Chi si vuole rivolgere allo Slow Food lo può fare direttamente, io non posso dire il nome di, del ricercatore. Certo. Comunque a Corigliano d'Otranto esiste un ricercatore, insomma, un buon professionista diciamo del tartufo. Bene, grazie Vittorio di essere intervenuto e di aver dato così questo indirizzo praticamente al nostro radioascoltatore che chiedeva appunto della Puglia, ma sono arrivati segnalazioni ad esempio a Bondeno in provincia di Ferrara, dicono c'è una festa, c'è una fiera del tartufo, poi ancora un altro radioascoltatore romagnese in provincia di Pavia, quindi aumentano questo, poi c'è un altro ancora che mi segnala in provincia di Bergamo, però in questo caso a Bracca, mi segnala il tartufo nero e non il tuber magnatum pico. Bene, comunque continuiamo questo viaggio in giro per l'Italia e ora andiamo nella mia amata Romagna e andiamo proprio in una zona importante anche per me dal punto di vista dei miei natali, andiamo nell'Acqua Cheta e andiamo a Dovadola, andiamo da Lorenzo Pezzi. Buongiorno Pezzi. Buongiorno a tutti. Allora, mi dica nella mia Romagna, in quella zona che conosco molto bene, cosa succede per il tartufo? Quanto vanno i tartufi in questo periodo? Eppure, c'è una buona raccolta quest'anno? Sicuramente nella nostra zona non è una buonissima annata, come le ultime due precedenti. Causa sicuramente le condizioni atmosferiche dell'annata precedente. Poca neve, poca acqua, un'estate abbastanza secca, soprattutto quando non piove nei momenti giusti, è un peccato per queste possibilità di raccolta. Sicuramente un'annata un po' migliore di quella di anno scorso, però come spesso accade la poca quantità va a beneficio della qualità. Ho capito. Quindi quest'anno ottima qualità, lei dice pochi ma di grande qualità. Sì, soprattutto in questo periodo di novembre, inizi di novembre, è aumentata notevolmente la qualità del prodotto, mentre nella prima parte dell'annata, dovuto soprattutto al caldo, non lasciava buone aspettative. Ecco, ci può dire indicativamente i prezzi di questi giorni? Ma nella nostra zona il prezzo può variare dai 110-120 euro a letto per piccole pezzature, quelle di utilizzo quotidiano, diciamo così, o da ristorazione, fino ad arrivare anche ai 250 o 300 a seconda della pezzatura, come questo prodotto. Incide notevolmente là. Quindi insomma, mentre in altre parti quest'anno c'è grande quantità, mi sembra di capire che ecco, questo dimostra anche, ed è importante secondo me segnalarlo, che cioè non è come il vino, magari è come il vino, anzi, che non tutti i territori hanno nell'annata particolare hanno delle cose straordinarie, può variare a seconda appunto dei territori, quindi anche il tartufo risente molto non tanto del terroir ma quanto delle condizioni climatiche che sono riscontrate. Senta Pezzi, un'ultima domanda le volevo chiedere. Lei pensa che quest'anno il tartufo si potrà trovare fino a dicembre? Ma sicuramente sì, me lo auguro e spero non oltre, perché ci sono state alcune annate che diciamo la stagione era un po' ballerina, per intenderci, quindi la stagionalità si era protratta per alcune settimane in cui il tartufo lo si è potuto trovare anche a gennaio e purtroppo dopo viene abusato la generosità della terra, diciamo così, e quindi di questo per le annate successive sicuramente le piante non ne godono. E dobbiamo anche tenere in considerazione questo che bene, per tanti bene. Anni ce ne deve dare ancora. Bene, grazie Lorenzo Pezzi di Dovadola, siamo nell'Acqua Cheta citata da Dante nella Divina Commedia, una zona molto bella. Sentiamo un altro radioascoltatore, Pietro dalla provincia di Foggia. Buongiorno Pietro. Buongiorno David. Allora, volevo rispondere in proposito ai tartufi di Puglia. Sì. Ti faccio i miei complimenti per la trasmissione con argomenti molto interessanti. Grazie. Specialmente per me che sono uno chef di cucina. Ah, bene, bene, bene Pietro. Senta, a Foggia c'è un ristorante che si chiama Funghi e Tartufi di Puglia. Ah. È di un collega che si dedica alla raccolta dei funghi, ma fa anche, diciamo, li cucina anche nel suo ristorante e quindi fa una produzione anche di tartufi conservati. Cioè ricerca a tutti. È un bellissimo locale vicino alla stazione, proprio dietro alla stazione. Bene, le fa molto onore fare pubblicità a un suo collega, fa molto piacere. Però le volevo chiedere, lei le cucina mai? Cioè le cucina mai? Le usa mai? Perché sono il tartufo bianco non va cucinato, quindi... Vogliamo segnalare. Sì, sì, lei lo diciamo lo utilizza il tartufo bianco? Sì, sì, naturalmente bisogna vedere per gli elevati costi che certo. Ha comunque lo usiamo certamente in cucina, si usa Da dove lo acquista? Da quale area dell'Italia lo acquista? Ma io veramente sono umbro di origine. Ah, beh, quindi... Quindi vado nella mia zona di Norcia, di quando c'è il tartufo nero, quando c'è quello invernale, quando c'è quello estivo, quindi bene. Ecco, me lo procuro un po' da quelle parti. Però adesso si trova, voglio dire, anche qui in Puglia ci sono delle zone nel subappennino dove ci trova. Questo tartufo viene... Grazie, grazie Pietro, e ora andiamo in un'altra area importantissima per il tartufo. In questi ultimi anni veramente gli esperti sanno che a San Pietro Avellana sicuramente è un enclave davvero tra le più importanti d'Italia dal punto di vista del tartufo, e siamo assieme a Alberto Ricci del Buongiorno. Ristorante Perticone. Buongiorno Ricci. Allora, com'è l'annata? L'annata è abbastanza buona rispetto alle altre passate, alle altre due passate è abbastanza buona. C'è una buona produttività discreta, non ci possiamo lamentare. E anche per quanto riguarda i costi, come sentivo anche l'altro collega, si mantengono relativamente bassi. Ah, quindi, ecco, più o meno ci dà un'indicazione? Ma guardi, dai 140 al letto arriviamo su 2,40, 2,50, pezza dura di 70-80 grammi, ovviamente questo al commerciante, poi in cucina dipende poi da dove si mangia, può arrivare anche qualcosina in più, però ci sono stati anni nei quali il costo è stato molto elevato, è arrivato anche a 400-500 euro a grammo. Senta Alberto, qual è un piatto tipico proprio vostro, cioè molisano, col tartufo di San Pietro Avellana, che appunto è la capitale di tutta l'area? Sì, noi qui abbiamo utilizzato da molti anni a questa parte molto le tagliatelle con il tartufo, ma io ho provato anche altri tipi di paste, tipo fusilli, orecchiette, che anche se non sono le orecchiette della nostra area, della nostra zona molisana, però è una pasta che viene molto buona con il tartufo. Bene, io ringrazio Alberto Ricci di San Pietro Avellana, il ristorante Perticone, che ci ha dato così anche un flash su quella zona lì che, come dicevo, è diventata negli ultimi anni una delle più importanti in Italia per la produzione del tartufo del tuber magnatum pico. Sentiamo un altro radioascoltatore, Antonio dalla provincia di Bari. Buongiorno Antonio. Buongiorno signor Paolini. Mi dica. Io le dico subito, non sono un competente di tartufi e a me non piace neanche mangiarlo, però ci tenevo a segnalarle che in Puglia, da noi, ad Andria, in una borgata a 10 chilometri, per il secondo anno consecutivo hanno fatto la sacra del tartufo della Murgia, tartufo che trovano sulla Murgia. Le uniche notizie che le posso dare è che è un tartufo nero e che non è di grossissima pezzatura, però chi lo ha assaggiato, chi lo ha mangiato, mi ha detto che è qualcosa di veramente eccezionale, non secondo quasi a nessun altro tartufo d'Italia. Ecco, ci tenevo solo Bene. A segnalarle questo. Bene, la ringrazio. Vedo che i pugliesi sono intervenuti in massa per difendere anche la loro terra, e mi fa molto piacere questo, mi fa molto piacere, perché secondo me è importante così la territorialità. Bene, e volevo anche aggiungere questo, che l'abbiamo già detto prima, come avete visto nelle varie aree ci sono differenze di prezzo, è evidente che anche qui, come si può dire, la griffe conta la griffe conta racconta anche la quantità di tartufi che vengono raccolti e un po' anche alla storia e alla tradizione. C'è da dire che sicuramente Alba ha una storia e una tradizione molto molto molto importante, e negli ultimi anni anche Acqualagna è emersa, San Pietro Vellano, queste piccole enclave che siamo andati a scoprire ovviamente ancora non hanno la notorietà e quindi c'è anche poco afflusso di pubblico probabilmente. Bene, sentiamo Roberto da Lecce. Buongiorno Roberto, radioascoltatore. Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Io ero interessato dalle osservazioni circa il tartufo in Puglia. Io telefono da Lecce, quindi ho avuto occasione di assaggiare il tartufo salentino, diciamo. Quello di Andria non lo so, e nemmeno quello di Foggia. Ma quello salentino esiste. Per essere chiamato tartufo occorre che il commensale non abbia mai assaggiato il vero tartufo. Io personalmente ho l'occasione di avere una moglie umbra, scusate, di Urbino, volevo dire, marchigiana, e quindi ho avuto modo di mangiare il tartufo dell'Acqualagna, come pure in Umbria, a Perugia varie volte, quindi non ha nulla a che vedere, meglio delle fettine di aglio. Bene, me. Grazie Roberto, abbiamo capito esattamente cosa voleva dirci. Bene, sentiamo ora, andiamo in un'altra zona, andiamo nel Rovigotto, andiamo in provincia di Rovigo, andiamo dal titolare del ristorante Al Ponte di Lusia, in provincia di Rovigo, Luciano Rizzato. Buongiorno Rizzato. Buongiorno a lei, Sir Paolini, e agli ascoltatori. Allora, si parla di tartufo molisano. Io so una cosa, che il suo ristorante ha vinto un contest tra i ristoratori, diciamo, che fanno parte di Chilometro Zero, i veneziani, proprio con un piatto a base di tartufo molisano, è così? Veramente no, perché noi adoperiamo quasi esclusivamente tartufo raccolto nel Polesine. Essendo Rovigo il terzo produttore di tartufo del Veneto, insomma, cerco di utilizzare e valorizzare quasi esclusivamente il tartufo bianco della mia zona, appunto, della collina del Polesine, ecco. Sì, ma io è questo che stavo dicendo, che so che avete fatte delle gare tra ristoratori a Chilometro Zero e voi avete vinto con un piatto del vostro chef. Cioè, qual è questo piatto? Ma era un risotto al tartufo. Ah, quindi, senta, ma quando si è stato adoperato il riso del delta del Po, il carnaroli del Po, con un tartufo estivo nero, e quest'estate, è stato in piena estate, sì, in una trattoria nel Padovano. Ecco. C'è stato un incontro tra diversi ristoranti e in quell'occasione è stato vinto da noi di Rovigo, insomma, ecco, questo premio, diciamo, ecco, a Chilometro Zero. Senta Rizzato, una cosa, nel Molisano c'è anche tartufo bianco? Ma guardi, Rovigo è in Veneto, pronto? Sì, pronto, l'ascoltiamo. Perché mi cita il Molise, non capisco. No, nel Polesano ho detto. Ah, ho capito, nel Molisano. Polesano. Le chiedo scusa, sì. Sono io che ho sentito male. Sì. No, mi ripete la domanda per cortesia? Volevo chiedere se nel Polesano esiste il tartufo bianco. Esatto, anche in quantità notevole. Ecco. Ripeto, siamo i terzi produttori di tartufo del Veneto con una discreta quantità. Quest'anno non in maniera eccezionale, non è che ce ne sia tantissimo perché per motivi di tempo, forse di clima. Di clima, eccetera. Noi qua a Rovigo stiamo cercando di valorizzare il nostro prodotto, tanto è vero che stiamo iniziando un corso per esperti in tartufi a un primo livello. Ci stiamo dando da fare, insomma, qui con me ho anche un esperto di tartufi nell'eventualità che lei... Volevo sapere, ecco, c'è un posto, un luogo, un borgo dove il tartufo bianco è importante nel Polesano? C'è qualche... Allora, guardi, tutta la riviera del Po, ovviamente che riguarda il Veneto, è la provincia di Rovigo, che è lunga e stretta, c'è una grossa raccolta di tartufo, soprattutto nelle aree golenali, dove ci sono boschi incontaminati, piante vecchie. Ecco, abbiamo una grandissima produzione di tartufo, siamo orgogliosi di questo, stiamo cercando di proporlo, di farlo conoscere. Bene, oggi magari serve anche a questo, far conoscere il tartufo polesano, lo ripeto, Luciano Rizzato del ristorante Al Ponte, esatto, di Lusia, sì, in provincia di Rovigo. Grazie Rizzato. Sentiamo grazie. Italo da Roma, buongiorno Italo. Buongiorno Davide. Mi dica. Io volevo segnalare il tartufo di Sant'Agata Feltria, di quello che è diventata la tua Romagna, perché poco tempo fa era nelle Marche, adesso in Romagna c'è una grande produzione, una grande qualità e anche un buon prezzo quest'anno, perché la raccolta è buona, ma la qualità del bianco di Sant'Agata e dintorni è straordinaria. Senti, ma tu sei quell'itolo che si occupa di calcio? Sono quell'itolo che si occupa di calcio, ma che gradisce mangiare i tartufi. Bene, Italo Cucci, ciao Italo, mi fa piacere, ciao, mi fa piacere sentirti. Hai ragione, quel Sant'Agata Feltria, quella zona lì, è importante anche quella. Grazie Italo di essere intervenuto. Allora, sentiamo anche Aurelio da Roma, un altro romano. Buongiorno Aurelio. Sì, buongiorno, romano di adozione, anche se ho natali pugliesi. Nulla, io volevo soltanto segnalare, a parte il fatto che oggi ho imparato che anche nella provincia di Foggia, da dove provengo, ci sono tartufi, io non avevo mai avuto modo di sentire. No, volevo reintrodurre invece il tartufo molisano, sì. Visto che da quello che mi risulta circa il 50% del prodotto che viene venduto in Italia proviene dal Molise. Ecco, diciamo che non è proprio il 50%, sicuramente non è la metà di quello che viene prodotto, comunque una fetta consistente arriva anche dal Molise. Grazie Aurelio da Roma e finiamo questa trasmissione andando in provincia di Pisa, dove sicuramente anche lì diciamo una zona molto ricca di tartufi, e andiamo da Cristiano Savini, che mi sembra sia a Londra in questo momento. Savini, sta vendendo il tartufo a Londra? Esatto. Certo, va portato anche alla regina qua a Londra il tartufo. Cosa gli ha portato? Di quanti etti ha portato? No, ho portato una pezzatura mista, sono quasi mezzo chilo di tartufo bianco di Toscano, più precisamente delle colline saminiatesi. Senta Savini, quest'anno c'è quantità nella vostra zona? La quantità è ricca, no, quest'anno? Non c'è quantità, sono già due o tre anni che nella nostra zona la quantità non lascia per fortuna posto alla qualità, però non è un'annata favorevole nemmeno quest'anno. E il prezzo? E il prezzo è abbastanza contenuto, vuoi un po' l'annata che è partita in ritardo, vuoi anche un po' il periodo così, tra virgolette, di crisi, quindi cerchiamo di tenere basso il più possibile. Ce lo dice il prezzo, su, ci dica il prezzo più o meno. Ma è il prezzo, noi si va intorno dalle 2.500 euro alle 3.500 euro al chilo. Bene. Questo è il prezzo del nostro tartufo. Bene, grazie. Vediamo che appunto Cristiano Savini è a Londra e appunto avete sentito mezzo chilo di tartufi nei ristoranti ovviamente londinesi, perché il nostro Tuber Magnatum Pico è diciamo ricercato in tutto il mondo, perché siamo forse l'unico paese che ne produce di qualità. Rispondo con questa a una domanda che si parlava di tartufi appunto bianchi stranieri, sì, però c'è una grossa differenza dal punto di vista del profumo, sono completamente diversi. Bene, grazie. Io spero che questo weekend sia un weekend all'insegna del tartufo. Vi do appuntamento domani per la replica di questa trasmissione alle 10, alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno con la pillola delle 18.30. Un saluto a tutti da Davide Paolini.